Bruno forse sì. Sì. Abbiamo suonato pure a Castelli. Ma sa che lì ci stava Riccardo. Ma inizialmente eravamo questi quattro. Poi Riccardo fece un gruppo per conto suo. Riccardo era più giovane di me, quindi. Però facendo, forse abbiamo voluto la rendere. Io mi sono chiamato, una volta eravamo i Cobra, una volta siamo stati The Little Davis, l'Androla non mi ricordo la bestia. Vabbè, era il tempo dei complessi, in ogni paese ci stava un complesso.